la storia sia del Vangelo sia della vita cristiana, della Chiesa, è piena di persone che hanno sbagliato e che hanno saputo però correggersi dei loro sbagli e ricavarne un guadagno. Per questo io oso dire una mia esperienza, una mia testimonianza, che parte male e arriva bene. Erano gli anni 70, chi di noi risale a quegli anni sa che erano tutti gli anni della contestazione anche dentro nella Chiesa. E dopo il Concilio si voleva svecchiare tante cose e si è caduti nell'errore che dice un detto popolare, non so se si usa anche al vostro paese, che uno buttando via l'acqua sporca ha buttato via anche il bambino, si usa da voi? No, è un modo di dire che per buttar via alcune cose che non van bene cade nell'errore di buttar via anche le cose che van bene. Io ero giovane prete e arriva il giorno di San Biagio, vado in chiesa, il mio parroco dice: allora dopo la messa fai baciare le candele, benedici la gola della gente. Dico: no, io non ci credo a quelle cose lì. E lui mi fa: ah, ma io ci credo, e allora le faccio baciare lei. E sono andato via. Sto per uscire di chiesa e mi sono accorto: Ambrogio, ma il modo di rispondere al tuo parroco è il modo di... La fede della gente è importante, anche se tu ti senti un prete moderno che non crede a queste... Allora sono tornato indietro e gli faccio: dove sono le candele? E l'ho fatto. E da allora non ho più smesso. Dico questo perché anche qualche giovane possa avere la sua personalità, però anche rispettare le tradizioni della Chiesa. Ora, questa tradizione di benedire la gola nel giorno di San Biagio è una tradizione cara al popolo e non è una cosa affatto da buttar via, perché sottolinea l'attenzione che la Chiesa ha anche verso la salute del corpo. Se noi guardiamo, il Vangelo è pieno di miracoli che Gesù fa a persone ammalate. Se Gesù ha avuto a cuore la salute del suo popolo, se noi andiamo nei santuari famosi della Madonna, ma tutti, dai più grandi ai più piccoli, sono luoghi in cui la Madonna facilmente dà la salute. Provate a pensare che cos'è Lourdes, una cosa straordinaria Lourdes, ma anche Loreto, anche Fatima. Quindi vuol dire che presso il Signore, presso Maria Santissima, sua madre, la salute del corpo è importante. Per questo io con serenità, con gioia, stasera per chi di voi si farà avanti, invocherò la benedizione di San Biagio sulla salute delle nostre gole, ma anche sulla salute del corpo. Perché è vero che quando moriremo perderemo del tutto la salute, però finché siamo sulla terra, avere la salute o non avere la salute non solo è importante per noi, perché quando si sta male è proprio brutto, ma è anche importante per il regno di Dio. Io tante volte, quando qualche persona ancora giovane è un po' malmessa, io faccio questa preghiera al Signore: Signore, la tua volontà sia fatta, ma se posso farti una preghiera per questa persona, ti chiedo, e glielo dico a quella persona, se guarisci bene ti dedicherai in modo un po' speciale alla Chiesa e al Vangelo. perché se il Signore ti restituisce la salute che attualmente non hai, tu gli devi essere grato servendo il suo regno. Ecco il senso per cui la Chiesa volentieri benedice durante il giorno di San Biagio le nostre gole, ma il Signore e la Chiesa desiderano invocare la salute su tutti noi. Io vi invito a unirvi dunque alla mia preghiera stasera, e voi sapete che io in tutte le sante messe invoco sempre un'Ave Maria per le persone che sono malate, dicendo: Signore, se ti piace, se tu vuoi, aiutaci a star meglio nella nostra salute affinché noi possiamo diventare servi del tuo Vangelo, e così sia.